Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Il cappotto termico sarà uno degli interventi cruciali attraverso i quali passerà la possibilità di aggiudicarsi il bonus fiscale del 110%, ma sarà soprattutto un'occasione per ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort delle nostre case. E questa sera, allora, dopo aver fatto luce nella puntata di ieri sui dettagli tecnici che contano per valutare le prestazioni di un cappotto edilizio, ci occuperemo di materiali. Raramente infatti vengono considerate alternative ai pannelli in EPS, che è un polimero parente del polistirolo di comprovata efficacia, ma non sempre la soluzione migliore, considerando aspetti quali il comportamento estivo o anche la sostenibilità complessiva dell'intervento. Per parlarci delle alternative è tornata a trovarci Elisa Lancellotti, ingegnere progettista, titolare dello studio Lancri, specializzato in bioedilizia. Buonasera Elisa. Buonasera, ciao Maurizio. Iniziamo con un quadro d'insieme, perché ci sono molte alternative anche nel campo della bioedilizia. Allora, anzitutto dobbiamo dividere tra cappotti esterni e cappotti interni. Nei cappotti esterni si utilizza molto bene l'XPS, l'EPS o il PUR, che sono, diciamo, cugini del polistirolo, citavi, sono derivati dal petrolio. C'è in alternativa anche la lana di roccia, che è una lavorazione di un minerale, la fibra di legno, la canapa, il sughero, materassini di canna palustre, piuttosto che paglia di varia natura, paglia di grano, paglia di riso. All'interno posso utilizzare sia i tipi di materiali che ti ho citato prima, ma possiamo utilizzare anche altri materiali, quali la cellulosa, che altro non è che fibra di carta riciclata, la lana di pecora, i materassini in stoffa riciclati, che altro non sono che materassini creati dal recupero dei vestiti usati, diciamo, sì. Poi, se vogliamo, laddove in particolari punti ho problemi di umidità di risalita da terra, posso utilizzare altri materiali ancora, che sono il calcio silicato, ad esempio, in pannelli, piuttosto che il vetro cellulare. Il vetro cellulare è dato dal 100% di riciclo di vetro. È una specie di lana di vetro, diciamo così. Esatto, in pannelli rigidi, ed nasce dal recupero del vetro. Dunque, voi avete pubblicato sul vostro sito un lavoro molto interessante. Io confesso che ho cercato per anni questo tipo di confronto fra vari, appunto, materiali da cappotto. Si tratta per lo più di materiali per la bioedilizia in questo caso, ma insomma è molto interessante. Ti chiedo di farci un po' un confronto fra due o tre materiali. Facciamo un confronto tra l'EPS derivato dal petrolio, che è il famoso polistirolo, la canapa e la canna palustre. Quello che è interessante notare è che tutti e tre questi cappotti hanno un ottimo isolamento termico, cioè tutti e tre raggiungono una trasmittanza buona di uno 0,2, ad esempio. D'inverno si comportano tutti bene dal punto di vista dell'isolamento. Abbastanza bene, sì. Però ho un miglior comfort laddove ho più massa termica, e quindi, ad esempio, materiali naturali quali la canapa o la canna palustre, che hanno una massa termica migliore, si trovano ad avere un comfort abitativo molto buono anche in estate. Ecco, per quanto riguarda invece l'aspetto, diciamo, legato alla gestione dell'umidità? Per quanto riguarda la traspirabilità del muro, ho su canapa e canna palustre una traspirabilità migliore rispetto alle PS. Un altro aspetto sotto cui si possono confrontare questi tre cappotti è quello della sostenibilità. Ci sono due valori che possono misurare la sostenibilità, che sono: uno, l'energia primaria o energia grigia, cioè l'energia inglobata nel materiale, l'energia richiesta per produrre quel materiale, e l'altro sono le emissioni di gas serra, cioè la CO2 che viene emessa per produrlo. EPS emette CO2, la sua produzione emette CO2, certo. Mentre canapa e canapa lustre, essendo provenienti dalle piante, quelle piante durante la loro vita hanno assorbito CO2 e emesso ossigeno. E l'energia primaria è molto buona nella canapa lustre perché c'è una lavorazione minima. La canapa è una fibra molto forte, quindi richiede una lavorazione particolare, per cui ha un po' più di energia, richiede un pochino più di energia. EPS è quello che richiede più energia di tutti per la produzione. Così come lo smaltimento, perché lo smaltimento di materiali naturali prevede una naturale biodegradabilità, mentre altri materiali possono essere riciclati, l'EPS può essere riciclato, però con degli alti costi energetici, cioè devo spendere energia per recuperarlo. Tra i vari materiali ci sono importanti differenze in termini dello spessore necessario? Perché a volte può essere un problema. Sì, può essere un problema. Se agiamo all'esterno il problema si riduce. I materiali naturali richiedono un pochino di spessore in più, ma la differenza è davvero nell'ordine di qualche centimetro. Costi sono elevati quelli di questi materiali da bioedilizia? Non si può rispondere in maniera generale. Materiale come il sughero è un materiale che forse sì, ha un costo maggiore. Un materiale come la canapa lustre, che ha una lavorazione industriale veramente minima, ha un costo paragonabile agli altri materiali. Quello che può cambiare è l'intonaco, cioè su un cappotto naturale consigliamo un intonaco naturale e questo ha anche però un costo un po' più alto. Ecco, naturalmente quando parliamo di questi materiali, la canapa lustre, la paglia, piuttosto che la canapa, sono tutti materiali che poi vengono intonacati e quant'altro, quindi dal punto di vista estetico non cambia nulla, è corretto? Sì, dal punto di vista estetico nessuno se ne accorge che è fatto in materiali naturali, tant'è che in alcune case si lascia la finestra della verità, che è un piccolo vetro nel muro, per far vedere cosa c'è dietro. Grazie Elisa Lancellotti. Grazie Maurizio. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.